Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. The Italian character is about nerve, drive. It's about the intimate things and mystery. It's really about passione. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Una bella iniezione di ottimismo con il trailer del documentario di Angelo Bozzolini, Il carattere italiano, per aprire la serie 2013 di Giovani Talenti. Quello stesso carattere che i nostri migliori talenti mettono in campo ogni giorno all'estero, tenendo alto il nome del nostro paese. Oggi ricordiamo con le sue parole una scienziata che ha reso grande l'Italia. Lavoro per un futuro che non è il mio, ma dei giovani. Solo l'istruzione può garantire il futuro ai tanti giovani nel mondo che non devono avere paura delle difficoltà. Grazie, Rita Levi Montalcini. E la frase della settimana è copyright del presidente del Consiglio Monti nel suo recente messaggio a Mi Talents. Sempre più giovani decidono di trascorrere un periodo di formazione e lavoro all'estero, spesso per scelta, altre volte per trovare un'uscita di sicurezza da un paese che non ne riconosce il talento e non offre opportunità adeguate. Avere talenti al di fuori dei propri confini non è di per sé un fatto negativo, ma occorre investire nell'obiettivo di rendere questi passaggi temporanei, facendo in modo che alla spinta ad uscire dal nostro paese corrisponda una capacità di far tornare coloro che lo desiderano o di attrarre talenti stranieri, così afferma Monti. Ma per arrivare alla circolazione dei talenti bisogna combattere alla radice le cause per le quali emigrano. Non ti davano la possibilità di crescere, non dava la possibilità di crescita internamente e monetariamente, quindi sono rimasto sempre allo stesso livello. Giuseppe Tagliavini, 38 anni, è un digital compositor cinematografico per Weta Digital a Wellington in Nuova Zelanda. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Importante è che soprattutto tra i giovani si manifesti, insieme con la polemica e l'indignazione, la voglia di reagire, la volontà di partecipare a un moto di cambiamento e di aprirsi delle strade. Perché in fondo quel che si chiede è che si offrano ai giovani delle opportunità, ponendo fine alla vecchia pratica delle promesse o delle offerte per canali personalistici e clientelari. Prospettare una visione per il futuro delle giovani generazioni e del paese è importante fin da ora. Cosa mi spinge a tornare in Italia? Probabilmente la voglia di tornare in Italia, di provare a vedere se è un contesto in cui si può riuscire a realizzare qualcosa a cui penso da diversi anni. Quindi il progetto è nella mia testa e mi piacerebbe provare a farlo qui e non a Londra. Apriamo le news a 2013 con le parole del presidente Giorgio Napolitano. Avete appena ascoltato un passaggio dedicato ai giovani nel suo messaggio di Capodanno e di Chiara Candelise, 36 anni, da Londra a Milano, lei che è lucana, per sviluppare modelli di business sulle energie rinnovabili ad azionariato diffuso. Chiara è una degli 8 giovani imprenditori controesodati a Milano, premiati il 20 dicembre quali vincitori del bando Welcome Talent Business. Il comune ha stanziato 40.000 euro per ciascuna startup, oltre a 20.000 euro per le spese di rientro. Cristina Tajani, assessora al lavoro e sviluppo economico. La circolazione dei cervelli in giro per il mondo è un elemento da valorizzare, da incentivare. I problemi cominciano quando i fattori espulsivi sono di più di quelli attrattivi. Quindi per una città come Milano, che si prepara ad investire su un evento internazionale importante come Expo, è importante diventare un trampolino non soltanto di uscita ma anche di rientro di giovani talenti, di giovani professionalità con idee innovative. Oggi ne abbiamo bisogno perché sappiamo che la gran parte degli italiani che hanno scelto di andare all'estero è partita da Milano pur non essendo milanese. Questo vuol dire che siamo ancora molto attrattivi per i percorsi formativi, ma facciamo fatica a trattenerli. In crescita con sempre più giovani e laureati, questo l'identikit della nuova emigrazione italiana nel 2011, secondo quanto reso noto dall'Istat. 50.000 connazionali che hanno lasciato il paese, 20.000 in più di quanti vi hanno fatto rientro. Mete preferite Germania, Svizzera e Gran Bretagna. Per regioni emigrano di più i Lombardi, seguiti da Lazio, Veneto e Sicilia. Il nord-ovest è l'area con più emigranti, ma il saldo negativo peggiore tra reimpatri ed espatri colpisce il nord-est. Oltre la metà degli emigrati sono uomini, la metà 20-40 anni per un'età media di 33 anni. La quota di laureati over 24 emigranti balza al 27,6% nel 2011, oltre 10.000 i laureati in uscita e il doppio di quelli di rientro. Meta preferita dai laureati la Gran Bretagna, seguita da Svizzera e Germania. Linda Laura Sabbadini, direttore dipartimento sociale Istat, ha elaborato per Giovani Talenti una statistica ancora più precisa sui laureati 25-40enni che lasciano l'Italia o che vi rientrano. Sono circa 7.000 i laureati che si sono recati all'estero, che potrebbero essere anche di più se invece non si sono registrati in anagrafe, quindi è la fotografia dell'anagrafe, e 3.234 sono quelli che sono rientrati. La cosa interessante che va sottolineata è che tra coloro che sono andati all'estero al primo posto si colloca la Gran Bretagna, seguita dalla Svizzera, dalla Germania, poi la Francia e gli Stati Uniti. La vostra ricerca ha posto l'accento sull'espatrio di giovani laureati dall'Italia, che è praticamente raddoppiato nel triennio centrale degli anni 2000. Che tipo di immigrazione effettivamente noi stiamo sempre più portando fuori e cosa entra o rientra? Quello che sta succedendo è che ovviamente non è che l'espatrio, diciamo, dei laureati sia maggioritario, nel senso che la componente di laureati è arrivata al 26%, quindi sono un quarto del totale. Quello che va detto è che ovviamente questa percentuale è in crescita negli ultimi anni e anche in crescita molto sostenuta. Noi ci ritroviamo invece degli immigrati nel nostro paese che magari, anche se arrivano con titoli di studio più elevati, poi si inseriscono in settori di lavoro assolutamente non qualificati e quindi, oltre a perdere capitale umano qualificato, ci arriva del capitale umano che non riusciamo a valorizzare. E secondo il quotidiano La Repubblica, il costo annuo per il sistema paese dei laureati che espatriano è pari a quasi 1 miliardo di euro. Si tratta degli investimenti sostenuti dall'Italia per formare questi giovani. E resta elevatissimo l'allarme sulla disoccupazione giovanile in Italia, a quota 37,1% a novembre, record assoluto, 641.000 giovani disoccupati, peggio di noi solo Grecia, Spagna e Portogallo. Sono molto felice, così la scienziata Fabiola Gianotti ha commentato la sua inclusione nella rosa di finalisti del settimanale Time per la copertina 2012. La Gianotti è entrata pure nella top 10 della rivista Nature. La scienziata ha affermato di osservare l'Italia come un paese che spreca i suoi talenti. I giovani ricercatori italiani in fisica delle particelle sono bravissimi e vanno ruba all'estero. A furia di perdere i talenti migliori, le nostre istituzioni di punta rischiano di perdere la loro leadership, dice la Gianotti. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta all'altro capo del mondo. Vogliamo allora scoprire i paesaggi mozzafiato della Nuova Zelanda, quella che per molti è già la nuova terra di mezzo. Nome: Giuseppe. Cognome: Tagliavini. Età: 38. Città di origine: Ravenna. Studi: Accademia di Belle Arti. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? Londra. Perché? Per imparare la lingua e pensare in grande. Quale lavoro svolgi attualmente? Digital Compositor. Dove? In Nuova Zelanda. Tornerai? Per le vacanze sicuramente. Lontano su nebbiosi monti gelati, in antri oscuri. L'Hobbit, un viaggio inaspettato. Abbiamo scelto il trailer della tua ultima fatica, Giuseppe, per raccontare la tua storia professionale che apre questa nuova annata di giovani talenti. All'estero c'è grande rispetto per il lavoro. In Italia ho avuto sempre solo pesci in faccia, mai un grazie. Quando c'è da lavorare si fa parte del team coi capi, quando c'è da ricevere qualcosa tu sei solo un impiegato. Nei paesi anglosassoni invece c'è grande collaborazione tra tutti e si dividono pure i risultati. Così denuncia giovanitalenti@radio24.it. Giuseppe, è questa maledetta gerarchia all'italiana che rovina tutto, che tarpa i talenti e premia i mediocri, il mondo al contrario, insomma? Sì, abbiamo un esempio nella politica, appunto la politica è lo specchio del paese. Se sei amico di qualcuno vai avanti, anche se non sei bravo. Se invece sei molto bravo e non conosci nessuno, sei sempre in disparte, purtroppo. Partiamo con la tua storia, la storia di un altro italiano che fa grande il nostro paese nel mondo col suo talento e la sua creatività. Dopo il liceo artistico ti lanci subito in alcune esperienze di lavoro tra videogiochi multimediali e cortometraggi, primo successo con il cortometraggio Tao. Come nasce questa tua passione per il mondo del cinema? Io sono cresciuto a Piedina e Guerre Stellari. Mi ricordo che guardavo Guerre Stellari quando ero piccolo con mio fratello ogni sera in televisione. E questo mi ha dato una grande voglia di imparare quegli effetti. Non trascorre neppure la tua formazione, ti iscrivi all'Accademia di Belle Arti di Ravenna, 6 anni di studio contesi sugli effetti visivi nei film. Come sono le nostre Accademie di Belle Arti, Giuseppe? Formano per il lavoro e la vita? Le Accademie non formano per la vita, però danno la possibilità di sperimentare nuove tecniche. Infatti i miei primi passi al computer li ho fatti dentro l'accademia. E nel 2000, in coincidenza con la laurea, ti trasferisci dall'Emilia Romagna a Roma. Ti aspetta Cinecittà, un tempo simbolo di un'Italia culturalmente di successo. È ancora così? Cinecittà al momento purtroppo è un po' in decadenza. Il mio periodo in Cinecittà è stato bellissimo. Ho avuto delle grandissime emozioni. Camminavo, incontravo Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, passeggiavi in un set di Gangs of New York, ti trovavi in mezzo a un film di Fellini, era stato bellissimo, però purtroppo non era tutto oro quello che luccicava. Ho incontrato tanta maleducazione e anche arroganza purtroppo negli studi. Purtroppo. A Roma lavori per una società di effetti visivi, prima come 3D artist e poi come compositor per firme e pubblicità. Tra i primi film a cui lavori ci sono Zorro la vampira e Al momento giusto con Panariello. Giuseppe, è difficile entrare nel nostro mondo del cinema, come si trova lavoro? Al tempo diciamo che non era difficilissimo, perché comunque non c'erano grandi studi, non c'era praticamente nulla. Si provava. E ora invece com'è? Adesso in teoria ci dovrebbe essere un po' più di studi che fanno questo lavoro, però questo bisognerebbe chiedere a chi sta in Italia adesso. Dopo qualche anno di esperienza ho capito che non ero pagato adeguatamente, non ero considerato, la mia carriera era arrivata a un vicolo cieco, denuncia giovanitalenti@radio24.it. Giuseppe, come si tarpano le ali a talento e creatività? Cos'è concretamente un vicolo cieco? Io mi ricordo che iniziai a fare un progetto contemporaneo quando ero a Roma, e questo non era ben visto nella compagnia. Cioè, i supervisori volevano che tutti i progetti che si facevano fossero importati dentro alla compagnia stessa, e quindi un supervisore dopo prendeva il tuo progetto e lo gestiva come voleva, quindi non ti davano la possibilità di crescere. Questa cosa non dava possibilità di crescita internamente e monetariamente, quindi sono rimasto sempre allo stesso livello. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Nel 2003 mi sono trasferito in Inghilterra, la differenza si è vista subito, produzioni hollywoodiane, paga adeguata alla mia categoria, grande rispetto e considerazione da parte di tutti, anche se sei l'ultimo arrivato. Giuseppe, un altro mondo allora è possibile? È così difficile rispettare e valorizzare il lavoro dei giovani, o basta forse solo un po' di onestà intellettuale unita a meritocrazia e opportunità? Sinceramente, secondo me il problema più grosso è la politica. Perché in Inghilterra e negli altri paesi anglosassoni c'è rispetto del lavoro? Perché la politica è trasparente, i politici sono i primi che danno il buon esempio, mentre in Italia sentiamo storie, gente che lavora 2 settimane a 3.000 euro al mese dopo, per tutta la vita, i vitalizi, mentre altra gente che lavora tutta la vita ha una pensione inadeguata. Questo ti fa capire. Ti fa capire molte cose. In Gran Bretagna frequenti un corso d'inglese, inizi a lavorare per la Moving Picture Company sul tuo primo film internazionale, Troy. Da lì si sviluppa un rapporto con la compagnia londinese che durerà 8 anni. È stato difficile trovare lavoro in Inghilterra? Serve conoscere qualcuno? Io non conoscevo nessuno, non sapevo neanche l'inglese. Quindi sono arrivato con un curriculum vitae in inglese e un DVD con gli effetti che avevo fatto in Italia. Ho applicato alle varie compagnie, ho fatto diversi colloqui di lavoro, e una compagnia, appunto MPC, il giorno dopo che ho fatto il colloquio mi ha chiamato e ha detto: puoi iniziare lunedì a lavorare. E all'MPC diventi Rotoprep Supervisor, insegni anche alle nuove reclute il lavoro. La lista dei film a cui collabori è incredibile, ne cito alcuni: Batman Begins, La fabbrica di cioccolato, Harry Potter, Le cronache di Narnia. Collabori anche da freelance per la neozelandese Weta Digital, e arriva la notorietà. È il 2010 e a cosa vieni candidato e cosa vinci? Vengo nominato come miglior compositing per gli effetti visivi per Avatar. Volo a Los Angeles per questa serata, bellissima, un'esperienza fantastica, e dopo un paio di mesi vinco un altro premio, HP Award, le Hollywood Post Alliance. Col successo arriva anche sempre più lavoro, molte compagnie ti contattano, e dopo un'ultima esperienza londinese col film Inception, vincitore dell'Oscar 2011 per i migliori effetti visivi, parti per la Nuova Zelanda. Com'è stato adattarsi socialmente e lavorativamente all'altra estremità del mondo? La Nuova Zelanda è un paese molto molto semplice, meno complesso di tutta l'Europa, quindi tutto scorre più lento, un ritmo più umano. Adattarsi è stata la cosa più facile che abbia mai fatto. A Wellington il tuo curriculum si arricchisce ulteriormente: lead compositor per l'avventura di Tintin, che ha vinto il Golden Globe, e poi idem per l'Alba del pianeta delle scimmie, second supervisor per l'Hobbit, attualmente sugli schermi. Il regista Peter Jackson è stato chiaro: con la tecnologia riporterò i giovani al cinema. Giuseppe, è l'innovazione la chiave vincente per affermarsi in questo nuovo millennio? Tecnologia e belle storie sicuramente aiuteranno il cinema. E ci spieghi qual è la tua mano dietro all'avventura di Bilbo Baggins? Io ho contribuito praticamente alla sequenza di Gollum e alle battaglie nelle porte di Moira. Qui tutti hanno una possibilità di carriera e di essere valorizzati, affermi. Citi a testimonianza i due Oscar vinti e le due candidature all'Oscar. E aggiungi, la cosa più importante per me è stata quella di vivere all'estero per allargare la mia visione del mondo e dell'Italia. Quale messaggio vuoi riportare sulla base della tua visione internazionale a questa Italia un po' troppo provinciale? Piacerebbe che gli italiani vedessero la situazione italiana da un punto di vista diverso da quello dei giornali e delle televisioni, così capirebbero come siamo visti male, soprattutto dal punto di vista politico. In una prima email tu ci hai mandato 5 consigli per l'Italia, in brevissimo, ce li riassumi? Direi sicuramente rispetto per le persone, per il lavoro altrui, in ufficio questa è una cosa fondamentale, perché più c'è rispetto più la gente lavora meglio. La maternità e la paternità sono cose fondamentali per il paese, deve essere vista come una cosa positiva dalle compagnie e non una perdita di soldi o di risorse. Queste sono le basi, secondo me, per una società civile. Le hai ridotte ulteriormente a 2 i consigli, ma hai voluto focalizzarti su quelli per te più importanti, ma c'erano anche, se ricordo bene, gli aiuti per gli investimenti dall'estero, per portare qui nuovi capitali e investimenti. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? Ripartire pure da una politica più seria. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giuseppe Tagliavini, 38enne digital compositor per produzioni cinematografiche. Giuseppe lavora a Wellington in Nuova Zelanda, tutto però ha inizio nella sua Ravenna, dove si fa le ossa mentre consegue la laurea all'Accademia di Belle Arti. Nel 2000 si trasferisce a Roma, dove lavora a Cinecittà, prende parte alla produzione di diversi film, ma dopo 3 anni se ne va, stanco di essere sottopagato, sottoconsiderato e con una carriera ormai in un cul-de-sac. Destinazione Inghilterra, oltre manica Giuseppe lavora a produzioni di carattere internazionale con film ormai nella storia del cinema. Grazie ad Avatar esplode la sua notorietà. Un paio d'anni fa prende così la rotta della Nuova Zelanda, dove oltre a trovare un'ottima qualità di vita continua a lavorare a produzioni di primo piano. L'ultima la conoscete bene, il film Lo Hobbit. All'Italia Giuseppe chiede più rispetto per le professionalità, salari adeguati, maggiore serietà nei progetti di lavoro, meritocrazia e incentivi per venire a investire nella penisola. Ci raggiunge ora in linea Giuseppe Squillaci, proprietario di Cane Cane, società di produzione di effetti visivi e animazione. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Giuseppe, la tua conoscenza con Giuseppe Tagliavini risale ai tempi in cui lavoravate entrambi a Cinecittà. Che lezione dà al mondo del cinema italiano la sua ascesa all'estero? Forse semplicemente stiamo parlando dell'ennesimo talento che ci siamo lasciati scappare? Sicuramente Giuseppe Tagliavini meritava tanto al tempo ed ha raccolto i frutti della sua capacità all'estero. Il problema però, secondo me, va affrontato in maniera leggermente diversa, perché bisogna per il momento assumere come dato di fatto che l'Italia non produce e non post-produce film di livello internazionale. Quindi è chiaro che se lui voleva fare, come voleva, con forza fare film di quella qualità, doveva necessariamente andare all'estero. Ecco, Giuseppe, lanci subito un tema importante. Cioè, in 20 anni effettivamente l'Italia ha guadagnato solo 3 nomination agli Oscar, l'ultima 7 anni fa con Cristina Comencini, e i tempi di Fellini e De Sica sembrano appartenere a un'altra era geologica. Nel confronto solo con la Francia siamo ampiamente perdenti. Cosa ha provocato questa progressiva emarginazione del nostro cinema a livello mondiale? Beh, sicuramente il fatto che, come più volte ha parlato Giuseppe Tagliavini in questo caso, credo che ci sia stata un'assenza totale della buona politica a livello nazionale per la promozione e la produzione del cinema, cioè un po' dormendo sugli allori di grandissimi successi, grandissimi autori che ci sono stati, non si è promossa una scuola che continuasse a produrre film di qualità, per cui quello che era stato e chi poteva mangiare su quello che c'era è andato avanti, le nuove leve, i nuovi ragazzi sono stati abbandonati. Questo è grave, le nuove leve l'hai detto tu stesso, però una domanda per te, tu sei supervisore degli effetti visivi, hai fondato la tua azienda, dopo 5 anni hai all'attivo 25 film e 2 nominations ai David di Donatello e ti sei formato anche alla European Academy del grande Carlo Rambaldi. Si può trovare una propria strada in Italia e a quale prezzo e anche a quali fatiche? Direi assolutamente sì, si può trovare. Io credo in buona parte di averla trovata, anche se le fatiche sono state e sono tuttora particolarmente pesanti da sopportare. Per esempio, quali sono i freni? I freni sono nel nostro settore, però in questo caso, quindi chiaro, non parlo per altri mondi, diciamo, lavorativi, ma nel nostro settore sono una produzione piuttosto piccola e di film che nel campo degli effetti visivi e effetti digitali non hanno grosse richieste. E questo alla faccia dell'innovazione, perché si parla tanto di innovazione e forse ci vorrebbe più innovazione anche nel cinema. Assolutamente sì, sono d'accordo. Purtroppo gli effetti digitali e il cinema di intrattenimento fino ad oggi è stato mal considerato in Italia. Questo credo che sia un difetto culturale nazionale. Nonostante che il grande pubblico va a vedere principalmente film di intrattenimento, oltre che premiare i film d'autore quando sono di qualità particolarmente elevata, purtroppo questi film di intrattenimento sono stati considerati per anni un qualcosa di sbagliato, cioè di non intellettualmente valido, non so come dire. Giuseppe Tagliavini, hai una domanda per Giuseppe Squillaci? Com'è la situazione degli effetti visivi in Italia e cosa ne pensi degli aiuti governativi sul cinema? Le domande sono complesse comunque. Dal punto di vista della situazione di oggi, io devo dire che rispetto a quando ci siamo salutati, ormai sono passati circa 10 anni, la situazione è comunque molto migliorata, perché c'è una rete, seppur lontana anni luce da quella internazionale, specialmente anglosassone, dove c'è la possibilità di lavorare con quasi costanza e per certe persone particolarmente qualificate si comincia anche ad avere un discreto rientro economico. Io annuncio a tutti che abbiamo preso finalmente quest'anno un film americano da lavorare, anche su una piccola parte, quindi anche qui qualcosa sta arrivando. Per quanto riguarda gli aiuti della politica, sicuramente mancano gli investimenti, però io penso che prima che gli investimenti che sono stati fatti e sono stati anche sprecati nel passato, in tantissime situazioni che è inutile ricordare in questo momento, direi che il primo investimento è l'istruzione e la formazione delle persone. Se non si compra la cultura, come si fa a produrla? Giuseppe Squillaci, l'Italia del cinema può ripartire dai suoi talenti? È utopico, come suggerisce Tagliavini, ricominciare a guardare alla meritocrazia, alla serietà dei progetti, al rispetto del lavoro e del talento? Possiamo, insomma, ripartire dagli outsider? Assolutamente sì, credo che si sia già ripartito, almeno io ritengo che questa grossa crisi che c'è stata ha fatto una selezione di tante situazioni. Molta gente che prima aveva lo spazio di agire senza controlli oggi è controllata e di conseguenza bisogna lavorare meglio e bene. Se poteva passare in televisione o al cinema un prodotto anche qualitativamente pessimo, oggi è un pochino più difficile, specialmente se dietro ci sono i soldi pubblici, perché la gente è attenta, come si dice, ha il dente avvelenato. Grazie a Giuseppe Squillaci, proprietario di Cane Cane. E domanda di rito per Giuseppe Tagliavini: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Sicuramente quella di buttarsi, di provare ad andare all'estero, che sicuramente non sarà una perdita di tempo, anzi solo ci guadagnerà solo culturalmente e sicuramente anche professionalmente. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un senior economist alla Bank of Estonia, sede di Tallinn, ha richiesto il PhD in economia, scadenza per i CV 15 gennaio, info a estipank.e. L'Unione Europea è alla ricerca di assistenti nei settori della revisione contabile, della finanza e dell'economia a Bruxelles, scadenza per i CV 22 gennaio, info a eu-careers.eu. E infine un lettore in fisica delle particelle all'Università di Oxford, scadenza per i CV 29 gennaio, info a physics.ox.ac.uk. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi torniamo a parlare della legge contro esodo, in particolare di un progetto che mira a dare attuazione concreta al rientro dei giovani talenti in Italia, unendo professionisti e imprese. Focus dunque sulla Fonderia dei Talenti, che partirà tra fine gennaio e metà febbraio. Il General Manager Lorenzo Pompei. Il progetto è nato nella primavera del 2012, quando la legge bipartisan contro esodo è diventata completamente operativa grazie alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, e la fondazione è stata quindi lanciata con l'obiettivo di implementare questa legge, perché una cosa appunto è fare una legge, un'altra cosa è renderla operativa e conosciuta da tutti gli eventuali beneficiari. E quindi dall'aprile del 2012, con i deputati bipartisan che hanno sostenuto questa legge, si è pensato alla creazione di una fondazione ad hoc per diffondere il messaggio tra tutti gli italiani all'estero che questa legge esiste, e da lì quindi è venuta l'idea di creare una fondazione e una community di Italians all'estero su internet. La fonderia copre un buco, se vogliamo, della legge, che è quello di creare un ponte tra imprese italiane e chi vuole tornare in Italia tra i nostri giovani professionisti. Assolutamente sì, infatti questa cosa ci si è resi conto che era diventata necessaria perché proprio le aziende, quindi loro stesse che possono essere indirettamente beneficiari di questa legge, non erano a conoscenza di questa iniziativa legislativa. Quindi l'idea della fondazione, che è quella appunto di raggruppare una community di Italians all'estero e farli conoscere alle aziende italiane, quindi sicuramente era un gap che era presente e che noi cerchiamo di completare con questa iniziativa. Come funzionerà concretamente? Se io sono un italiano all'estero, voglio tornare dopo qualche anno nel mio paese, mi rivolgo al sito o alla fonderia e che accade? L'utente all'estero arriva sul sito della fonderia, muovendo dei cursori viene posizionato in un basket di utenti e potrà inserire informazioni personali relative alla propria professione attuale all'estero e potrà scegliere se rendersi o meno visibile ad un'azienda in Italia. Poi ci sarà la geolocalizzazione di questi talenti, cioè l'utente potrà scegliere se rendersi visibile o meno su una cartina del mondo, e questo permetterà sia alle aziende ma anche ad altri Italians all'estero o giovani talenti in Italia di poterli vedere e eventualmente entrare in contatto con loro. Il progetto deve ancora partire, ma già qualche feedback dalle aziende l'avete avuto? Diciamo che la nostra più grossa sorpresa andando a parlare con le aziende è stata quella proprio dell'ignoranza sulla legge 238, quindi le aziende non erano a conoscenza, perché ovviamente non è una legge che interessa loro direttamente, ma visto che loro stesse sono beneficiarie di questa legge in maniera indiretta, nel senso che possono attingere a un pool di candidati ben definito che attualmente è al di fuori del loro radar, diciamo che c'è stato molto interesse da parte loro, quindi siamo comunque molto fiduciosi. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.lafonderia.org. Un motivo per restare o tornare. Stavolta un buon motivo per restare o per tornare ve lo forniamo noi con la nuova iniziativa Twitter di Giovani Talenti. Da questa settimana e fino a giugno vi invitiamo a dire la vostra, dibattere e discutere in 140 caratteri utilizzando i seguenti hashtag: sì al talento, sì al merito, sì al controesodo, no ai raccomandati, no ai mediocri, no ai cooptati. Facciamo e fate sentire al web la voce dei giovani talenti, la voce di chi crede nel merito e rifiuta la mediocrità. L'account Twitter di riferimento è Fuga dei Talenti. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di gennaio è: tre aspettative per il 2013. Quali speranze affidate al nuovo anno perché possa essere un anno di cambiamento? Inviateci i vostri tre punti fermi per innovare l'Italia rendendola un paese giovane, moderno e aperto alla circolazione dei talenti. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.